Buongiorno, le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Manovra correttiva entro aprile o procedura d'infrazione, dice l'Europa all'Italia. Dombrovskis, dalla situazione italiana rischi anche per altri paesi. L'inflazione di gennaio cresce ai massimi da 3 anni e mezzo. Per il cosiddetto carrello della spesa, la risalita è dell'1,9%. Dopo la protesta dei tassisti, riprende il servizio in tutta Italia. Oggi tocca ai mezzi pubblici a Roma, 4 ore di sciopero dei trasporti. Torna la Viaria in Francia, centinaia di migliaia di anatre abbattute. Nel Veronese ordinato anche l'abbattimento di 43.000 tacchini. TAV concluso, il tunnel esplorativo a Chiomonte, il primo capitolo della parte italiana della Torino-Lione. Si apre la settimana della moda a Milano, attesa per la sfilata di Gucci, la prima con collezione uomo e donna insieme. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it. Da oggi magari proviamo a dare anche un po' più di spazio ai vostri interventi, appunto via WhatsApp e via sms, naturalmente come sempre se li riterremo pertinenti. Iniziamo dunque e iniziamo dalla manovra che ci richiede Bruxelles. Vincenzo Miglietta, buongiorno. There would be a case to open the excessive deficit procedure for Italy. Sì, buongiorno Simone, tutto come previsto dalle parole che abbiamo sentito del vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis. Nessuna procedura di infrazione per il momento per il nostro paese, ma Bruxelles avverte manovra di rientro dal disavanzo entro aprile o sarà aperta la procedura di infrazione. In particolare la nota della Commissione europea sull'adozione del rapporto sul debito dice: se il governo non attuerà in modo credibile le misure per la correzione dei conti pubblici di almeno lo 0,2% del PIL entro il mese di aprile, la Commissione considererà non rispettata la regola del debito, ma la decisione di aprire una procedura per disavanzi eccessivi sarà presa in base alle previsioni di primavera che di solito vengono pubblicate a maggio. Ed ancora, l'Italia presenta eccessivi squilibri per il nostro paese, sono indicati l'alto debito, la protratta debolezza nella dinamica della produttività in un contesto di alti crediti in sofferenza e disoccupazione. Nel testo sono riconosciute, Simone, una serie di riforme positive, ma si osserva che l'impulso è rallentato dalla metà del 2016, quindi la stoccata forse più dura a Palazzo Chigi. Dalla situazione economica dell'Italia, con alto debito e bassa produttività in un contesto di difficoltà per le banche e alta disoccupazione, possono crearsi rischi anche per gli altri paesi europei. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Migliette. Sono di oggi i dati economici sull'inflazione, quella italiana, c'è anche quella europea, viene confermato un dato di un più 1,8%. Sono importanti evidentemente anche per capire come si muoverà la Banca Centrale Europea nei prossimi mesi. Il servizio sull'inflazione italiana. Il tasso di inflazione dell'1% registrato a gennaio è il più alto dall'agosto del 2013, quando era stato dell'1,2%. Lo ha comunicato l'Istat, che ha rivisto al rialzo le stime preliminari. A spingere l'inflazione è l'aumento record del 20,4% dei prezzi dei vegetali freschi e del 7,3% della frutta rispetto allo stesso mese dello scorso anno, per effetto del maltempo che con gelo e neve ha decimato le coltivazioni agricole. Dai dati dell'Istat, i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona aumentano dell'1,1% su base mensile, dell'1,9% su base annua. Secondo il Codacons, l'aumento dell'inflazione comporterà una maggiore spesa su base annua pari a 300 euro per la famiglia tipo. Per quanto riguarda l'eurozona, ovvero i 19 che usano la stessa moneta, a gennaio l'inflazione è salita all'1,8% su base annuale rispetto all'1,1% di dicembre. Lo indica Eurostat. L'inflazione maggiore in Belgio col 3,1%, la più bassa in Irlanda. In Italia il tasso dell'1% resta il nono più debole nell'UE. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo a notizie appena battute dalle agenzie e che riguardano l'ex presidente di Banca Carige, Giovanni Berneschi, che è stato condannato a 8 anni e 2 mesi nell'ambito del processo per la maxi truffa ai danni del ramo assicurativo Carige Vita Nuova, che portò all'arresto del numero 1 dell'istituto di credito e altre 6 persone. Berneschi commenta subito dopo la sentenza: mancava che mi sparassero. Siamo in linea con Fabio Pavesi del Sole 24 Ore. Fabio, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Allora, per cosa ci puoi aiutare a ricostruire la vicenda? Per cosa era imputato Berneschi esattamente? L'imputazione era una truffa bella e buona, nel senso che secondo la tesi della procura, poi acclarata e quindi con la condanna, si vedeva questo, che la Carige Assicurazioni comprava immobili a prezzi ipervalutati e li comprava da una persona dietro cui si celavano in realtà Berneschi e altri soci. La plusvalenza fatta su questi pezzi gonfiati finiva direttamente nelle tasche di Berneschi e dei suoi sodali, insomma una truffa bella e buona ai danni della compagnia assicurativa e del gruppo bancario. Quindi è una truffa, va ricordato che Berneschi è uno dei grandi, come dire, banchieri inossidabili, è stato, cioè con Zonin e Consoli è stato alla guida di Carige per almeno 15 anni, era una sorta di padre padrone della banca. È l'unico procedimento che riguarda Berneschi questo, Fabio? No, Berneschi poi ha la responsabilità del grave dissesto della banca Carige, per cui poi è indagato per le vicende della gestione della banca. Ricordiamo che Carige con MPS e due banche venete erano delle banche malate italiane e c'era un accumulo di crediti, come dire, facili che hanno prodotto una mole di sofferenze pesantissima che ha portato a perdite miliardarie, da cui la banca ancora non è uscita perché Carige ha chiuso l'ultimo bilancio con altri 300 milioni di perdite. Sono praticamente i crediti malati che sulla gestione Berneschi non venivano svalutati a bilancio, quindi producevano fittiziamente degli utili, quando in realtà erano delle perdite, erano mascherate dal fatto che venivano svalutati. Poi è arrivata la Banca d'Italia, ha guardato il portafoglio crediti, ha detto questa cosa va svalutata e rettificata, sono partite le crediti miliardarie ed è stata la fine della parabola di Giovanni Berneschi. Appunto, e oggi la condanna. Io ti ringrazio, grazie a Fabio Pavesi del Sole 24 Ore per averci aiutato a capire, tra l'altro, insomma, molto rapidamente, l'abbiamo chiamato due minuti fa perché la notizia è di due minuti fa. Torniamo a Roma, dove all'indomani della protesta dei tassisti la città si sveglia con un nuovo sciopero dei mezzi pubblici. Alessandra Schepisi, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno Simone, è così, il blocco dei taxi non c'è più e qui a Piazza dei 500 da questa mattina ad esempio si è formata nuovamente la lunga fila di auto bianche, ma se i tassisti hanno ripreso regolarmente a circolare i disagi per i romani non sono terminati perché per 4 ore dalle 8.30 alle 12.30 i mezzi pubblici dell'ATAC si sono fermati a causa dell'astensione al lavoro indetta dalla sigla Faisa-Confail. Lo sciopero è ora terminato, il servizio è tornato regolare, ma in mattinata ci sono stati disagi, in particolare per gli utenti della linea della metro che è rimasta chiusa, la B ha subito una riduzione di corse, a singhiozzo anche ferrovie regionali e mezzi di superficie con passeggeri schiacciati come sardine. Allora sentiamo alcune delle loro voci raccolte in mattinata. Oggi ci sono un po' di disagi, pazienza, siamo turisti quindi... Ma lo sapevate? Sì, lo sapevamo. Eravamo informati comunque, va. Eravate preparati al caos della capitale? Sì, praticamente sì. Beh, io non lo sapevo, quindi è stata una meravigliosa sorpresa. C'era un avviso da nessuna parte, eh? C'è una cosa allucinante, no? Che la gente che ti spinge proprio è incredibile. Troppo pieni e abbiamo proprio un servizio che fa pietà. Ecco, in linea generale possiamo dire, Simone, che il traffico non è sembrato nella capitale maggiore del solito, complice anche l'apertura dei varchi ZTL decisa dal Campidoglio e la ripresa del servizio taxi. Una settimana che però resta complicata per i romani, venerdì tocca al trasporto pubblico extraurbano che si ferma per 24 ore. Da Roma è tutto. E grazie dunque ad Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Intanto si ragiona sull'intesa raggiunta ieri e si indaga anche evidentemente sulle violenze. Sentiamo. L'intesa siglata tra governo e sindacati ha placato le proteste dei tassisti, che dopo una settimana di blocco del servizio sono tornati al lavoro. A Roma le auto bianche oggi sono ovunque ed è tornata alla normalità dopo gli scontri e le manifestazioni di ieri. L'accordo prevede che entro 30 giorni il Ministero dei Trasporti faccia un decreto contro l'abusivismo e il riordino del settore, superando così l'emendamento al milleproroghe che ha scatenato le proteste per chi rinvia la riorganizzazione a fine anno. Un accordo che andrà comunque verificato, spiega Stefano Mennini, tassista da 6 anni. Non c'è un vero e proprio raccordo, ma c'è una possibilità di dialogo e questo è già una cosa un po' soddisfacente. Poi vediamo tra 30 giorni se effettivamente c'è stato questo dialogo, questo è importante. Le 21 sigle sindacali firmatarie dell'accordo sono oggi riunite in assemblea per ratificare l'intesa e trovare una sintesi sulle proposte da presentare al Ministero. Ma l'accordo potrebbe essere a rischio. Il Codacons ha infatti presentato un esposto all'autorità anticorruzione e alla Procura di Roma perché l'intesa non si basa sulla libera volontà delle parti, ma, sostiene l'associazione, determinata dalla violenza e dalle proteste di ieri che hanno di fatto ricattato il governo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E mentre le critiche si appuntano sulla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ieri è andata a dare solidarietà ai tassisti in protesta per poi condannare le violenze, la giunta di Roma è ancora alle prese con le vicende dello stadio. Il Campidoglio prende tempo sul nuovo stadio di Tor di Valle. Previsto per oggi pomeriggio, slitta a venerdì l'incontro fra i rappresentanti del Comune, la AS Roma e il costruttore Parnasi. La giunta Raggi avrebbe intenzione di revocare la delibera varata dall'amministrazione Marino che stabiliva la pubblica utilità dell'opera e sarebbe orientata a chiedere diverse modifiche al progetto a partire da una netta riduzione delle cubature. La maggioranza dei consiglieri 5 Stelle spinge però per fermare in modo definitivo l'operazione immobiliare. Nel pomeriggio Beppe Grillo sarà in Campidoglio per cercare di convincere i più riottosi a convergere sul via libera allo stadio. A complicare il quadro c'è la richiesta di vincolo presentata dalla soprintendenza alle belle arti sull'ippodromo di Tor di Valle, che dovrebbe essere abbattuto per fare spazio al nuovo impianto. Anche di questo si parlerà nella riunione di venerdì, nella quale il comune potrebbe presentare la sua richiesta di revisione del progetto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di TAV, adesso si è conclusa la prima fase per il tunnel di Chiomonte. Filomena Greco, buongiorno. Sì, Simone, è così, si sono conclusi effettivamente i lavori nel sito di Chiomonte. Ricordiamo che si tratta di lavori preparatori in vista poi di quello che sarà il futuro scavo del tunnel di base della Torino-Lione, la galleria da 57 chilometri che collegherà Italia e Francia e che sarà operativa non prima del 2029. I lavori finora realizzati erano destinati alla realizzazione di un cunicolo esplorativo per un totale di 7 chilometri, uno dei quattro previsti proprio per studiare le caratteristiche della roccia in vari punti sia sul territorio italiano che su quello francese e preparare poi il futuro scavo. Il cantiere in Valsusa è stato aperto, lo ricordiamo, nel 2012 ed è stato al centro di scontri e proteste che tutti ricorderete in questi anni da parte del movimento NoTav. Il tema politico però dell'opposizione alla TAV resta sul campo. La sindaca di Torino Chiara Appendino è infatti uscita poche settimane fa dall'Osservatorio sull'alta velocità, che è l'organo che riunisce gli amministratori del territorio, però in parallelo la fase di progettazione e di autorizzazione dell'opera è andata avanti, si è di fatto conclusa tra novembre e gennaio con la ratifica da parte dei parlamenti italiano e francese dell'intesa fra i due paesi a favore della proprio Torino-Lione. Beh, cosa succede adesso? Chiomonte resterà effettivamente un'area fondamentale per i lavori della futura alta velocità, perché sarà proprio quell'area ad ospitare in futuro il cantiere principale sul territorio italiano collegato alla Torino-Lione. I lavori sono stati suddivisi in lotti e tra quest'anno e l'anno prossimo ci saranno le gare per l'assegnazione poi dei lavori definitivi. Da Chiomonte in particolare si scaverà in direzione di Susa per realizzare la parte del tunnel di base che insiste sul territorio italiano, in totale 12,5 chilometri. L'intera opera, la tratta internazionale, costerà 8,6 miliardi e il 35% a carico dell'Italia, circa il 40% a carico dell'Europa. E grazie dunque a Filomena Greco. E visto che stiamo parlando di trasporti, spostiamoci a Verona, dove oggi si apre Transpotec, che è l'appuntamento annuale dedicato all'autotrasporto. Abbiamo in diretta Andrea Ferro. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno dalla Fiera di Verona, buongiorno da Transpotec. Organizzata da Fiera Milano, la manifestazione costituisce l'appuntamento più importante per gli operatori dell'autotrasporto e della logistica e quest'anno va in scena in contemporanea con Samoter, la triennale per le macchine per costruzioni, e Asfaltica, dedicata alle tecnologie per pavimentazioni e infrastrutture stradali. Su questa edizione di Transpotec soffiano le correnti favorevoli e bene auguranti che stanno spingendo il mercato dei veicoli industriali e commerciali, un mercato che sta risalendo la china dopo gli anni bui della crisi, nel corso dei quali si è assistito ad un crollo verticale delle immatricolazioni. Ad innescare la riscossa sono stati due elementi fondamentali: la proroga del superammortamento al 140% per l'acquisto di beni strumentali e gli incentivi a favore degli investimenti stanziati dal governo nell'ambito degli interventi a sostegno del comparto dell'autotrasporto. Dicevamo dei dati incoraggianti del mercato. Gli ultimi si riferiscono a gennaio. Secondo ANFIA, che è l'Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica, nel corso del primo mese del 2017 sono stati rilasciati 2.232 libretti di circolazione di nuovi autocarri, cioè l'equivalente del 57,6% in più rispetto al dato del gennaio 2016. E nel complesso il 2016 si era già chiuso con numeri davvero significativi. Le immatricolazioni degli autocarri avevano fatto registrare un balzo in avanti, più 54%. 4%, con l'ultimo quadrimestre da record, più 107%. Ma focalizziamo l'attenzione su questa edizione di Transpotec, 300 gli espositori. Sentiamo Giuseppe Garri, Exhibition Manager di Fiera Milano. Quest'anno l'edizione del 2017 sarà un'edizione record perché abbiamo avuto un aumento del 30% delle aree espositive, del 20% degli espositori e tutto il mercato che nel 2016 è stato in crescita ne ha beneficiato, siamo molto contenti, l'unione con Samoter ci serve per dare un prodotto a livello internazionale e quindi credo che sia per i visitatori che verranno una grandissima opportunità di business e di conoscenza. Ci sono test ride, prove, workshop, convegni che parleranno di tutte le problematiche e le tematiche legate al trasporto e alla logistica. Ci sono ritorni importantissimi di aziende italiane ed estere che non si affacciavano nella nostra manifestazione da molti anni. Numerose le iniziative collaterali, tra poco si parla dell'iniziativa avviata dall'Albo Nazionale degli Autotrasportatori per avvicinare i giovani al mestiere dell'autista. E davvero è tutto a te. E grazie dunque ad Andrea Ferro per questo aggiornamento. Veniamo allo sport. Beh, della partita di questa sera della Juventus, diciamo, avrete tempo di parlare in tutti i convocati a partire dalle 14. Noi vogliamo occuparci adesso in questo spazio di rugby perché l'Italia si prepara alla sfida con l'Inghilterra di domenica. Le speranze sono ridotte a zero visto che è la squadra più forte del torneo, mentre si inizia a parlare però di una possibile esclusione dell'Italia dal Sei Nazioni e il movimento rugbistico si interroga. L'analisi è di Giacomo Bagnasco. Pericolo valanghe domenica per l'Italia del rugby in casa dell'Inghilterra. Uno squadrone che si è fatto invincibile e un team azzurro che nel Sei Nazioni non si aggiudica una partita da due anni. Al momento il gap a nostro sfavore è notevole anche nei confronti delle altre contendenti, il che dà forza a chi sostiene un sistema di promozioni e retrocessioni coinvolgendo il Sei Nazioni B, nel quale da tempo si afferma la Georgia. L'idea di un play-off tra l'ultima del torneo per eccellenza e la prima della competizione di livello inferiore è stata rilanciata da Clive Woodward, il CT che con l'Inghilterra vinse la Coppa del Mondo nel 2003. Detto che un cambiamento del genere non potrebbe entrare in vigore nel breve termine e che bisognerebbe fare i conti in classifica dopo cicli biennali per pareggiare il numero di match in casa e in trasferta, il primo obiettivo dell'Italia sarebbe semplicemente quello di migliorare nel frattempo ed evitare l'ultimo posto, perché nel Sei Nazioni B si finirebbe per vincere quasi tutte le partite, ma la visibilità degli azzurri e le casse federali soffrirebbero non poco. Giacomo Bagnasco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo tra un attimo e inizieremo il nostro giro per l'Italia. Inizieremo da Milano, dove c'è una vicenda che riguarda gli abitanti di una zona, la zona Corvetto, che è decisamente particolare. Perché? Perché ci sono dei camper piazzati là accanto ai giardinetti dei bambini, accanto alle elementari, sono dei campi nei quali ci sono dei rom. Ogni volta arrivano i poliziotti per fare lo sgombero, solo che alcuni non possono essere rimossi semplicemente perché c'è gente ai domiciliari dentro i camper. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati di quello che richiede l'Europa all'Italia in termini di manovra. Entro aprile una correzione o procedura di infrazione. Abbiamo parlato dell'inflazione di gennaio che cresce, abbiamo parlato della protesta dei tassisti, tra l'altro è notizia di poco fa che la maggioranza delle sigle sindacali ha approvato l'accordo raggiunto ieri al Ministero dei Trasporti. Abbiamo parlato della condanna per l'ex presidente di Carige Berneschi a 8 anni e passa per truffa. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, ma non prima di aver dato anche una risposta a qualche ascoltatore che ci scrive complimenti per la faziosità nel servizio sull'ATAC, non avete indicato le motivazioni dello sciopero di questa mattina dei trasporti pubblici a Roma. Guardi, leggo dalle dichiarazioni di il segretario segretario di Faisa Confile, Claudio De Francesco, che il sindacato ha proclamato lo sciopero di questa mattina. I lavoratori sono costretti a prestare servizio in condizioni precarie, come viaggiare su sedie di plastica sulla Roma Giardinetti o subire un aumento delle polveri sottili nelle gallerie perché non vengono pulite. Boh, se vi sembrano queste delle valide motivazioni di uno sciopero, fatecelo sapere. Andiamo a Milano nel nostro giro per l'Italia. Prima tappa, Carmela Rozza, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. C'è una storia che ci ha colpito molto e che è sulla prima pagina del giorno di oggi, richiamata con una fotonotizia, tra l'altro, e riguarda una zona di Milano che è la zona di Corvetto. Che cosa succede? Là c'è un gruppo di nomadi che sosta normalmente con dei camper. Ogni tanto arrivano, immagino, anche la polizia municipale, arrivano comunque le forze dell'ordine, li fanno sgomberare, li fanno andar via, solamente ci sono delle roulotte che restano là, perché ci sono delle persone ai domiciliari là dentro e questa cosa non si riesce a risolvere. Che succede, Rozza? Ma guardi, intanto non è ogni tanto, noi solo per dire gli interventi del gennaio-febbraio abbiamo fatto ben 10 interventi, abbiamo fatto allontanare ben 36 veicoli e più di 106 persone. Poi purtroppo è una sorta di gioco di guardie e ladri, noi li allontaniamo e poi appena se ne va la polizia locale tornano, regolarmente ritornano, e i cittadini ci informano e regolarmente torniamo. Poi per quanto riguarda invece il tema che mi scusi Rozza, è un lavoro infinito, cioè non se ne esce più l'anno scorso io ho fatto una conferenza stampa annunciando che sarebbero stati fatti allontanamenti dinamici, come li chiamano la polizia locale, tutti i giorni, man mano che vediamo piccoli o medi insediamenti, sia con veicoli che non, si interviene e si sgombra. Ma è un gioco da guardie e ladre. Sì. Perché? Perché per due motivi. Non abbiamo strumenti, tranne che amministrativi, per imporre l'allontanamento. Adesso spero che con il decreto sicurezza urbana del governo, che è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, di trovare degli strumenti maggiori, ma temo che abbiamo bisogno di aumentare gli strumenti di potere alla polizia locale. Purtroppo il decreto non lo fa, ma so che in Parlamento tutti i comuni, compreso naturalmente Milano, con l'ANCI stiamo preparando degli emendamenti in merito perché il decreto poi in Parlamento venga migliorato con questi. È curiosa questa cosa dei domiciliari in una roulotte. I domiciliari, le assicuro, a Milano ne abbiamo visti di tutti i colori, abbiamo visto i domiciliari sulla panchina. C'è un caso di domiciliari su una panchina? Abbiamo avuto il caso non ci voglio credere. No, le giuro. Purtroppo i domiciliari non li decide la polizia locale, né no, è chiaro, Milano, è chiaro. Né altro. Ma a quale giudice può venire in mente di dare i domiciliari su una panchina? Ma le assicuro che non vi sto raccontando una barzelletta, è un fatto assolutamente vero. Come uno dei problemi seri che abbiamo sono i domiciliari a chi ha occupato abusivamente una casa e gli viene dato il domiciliare nella casa occupata. Le posso descrivere questo episodio che ci è successo non più tardi no, di un scusi, mese fa. Ma mi viene veramente da ridere perché è drammatico, dal mio punto di vista comincia a essere drammatico. Le faccio un esempio, poiché qualche settimana fa la polizia locale fa un intervento antidroga contro lo spaccio in via Gola, arresta tre persone che risultano abitanti abusivi in tre palazzine di case popolari intorno a via Gola. Bene, l'italiano, erano due stranieri e un italiano. L'italiano riceve gli arresti domiciliari nell'appartamento occupato abusivamente. Appunto, quello che mi diceva prima. Naturalmente poi succede che i cittadini se la prendono con voi, con le amministrazioni locali per queste vicende qua, no? Certo, non è che se la prendono. Io capisco i cittadini, anche perché il cittadino, il suo primo punto di riferimento è il sindaco, quindi si rivolge al sindaco per chiedere le soluzioni. Poi quando il sindaco non ce le ha le soluzioni, la gente fa sperata, specialmente non riesce ad accettare l'idea che c'è un livello su cui l'amministrazione non può intervenire. Evidentemente non può intervenire. Mi segnala un'ascoltatrice, credo che domiciliari su una panchina anche a Roma, a Trastevere, nei pressi del comando dei carabinieri. Evidentemente è una pratica invalsa questa dei domiciliari sulle panchine. Praticamente il dato qual è? Che se sono dei clochard non hanno residenza e magari i reati non sono fortemente tali. Gravissimi, certo. Gravissimi, era la magistratura decide una cosa qui, quindi non si può allontanare. No, non solo, guardi, ne abbiamo avuto un caso ancora più particolare, un clochard, come dice, molesto, qui proprio in centro a Milano, San Babila, che aveva l'obbligo di dimora non mi ricordo l'orario esatto, ma le faccio un esempio, dalle 18 alle 21 doveva stare lì, quindi non potevamo neanche dirgli qua tu non ci puoi stare. No, dove aveva restare? Obbligo di dimora in quell'angolo nel quale dormiva. In quell'angolo di Piazza Duomo. Di Piazza Duomo nel quale dormiva. Veramente affascinante. Senta, assessore, visto che ce l'ho in linea, com'è finita con le palme? Siete riusciti a identificare la persona che ha dato fuoco a queste palme o no? Abbiamo una signora che ci ha contattato come testimone, che ci ha detto che lei ci ha parlato con questo ragazzo, infatti ci dice che è un giovane italiano, circa ventenne. Con le telecamere stanno sbombinando ore e ore di filmati di varie posizioni per trovare la visione più leggibile. Il dato vero è che se non ha, anche se individuiamo il dito, ma non ha trascorsi precedenti penali, non c'è un database dove possiamo abbinare la faccia. E quindi non riuscite, per il momento non si riesce a beccare. Vabbè, vedremo che cosa succederà. Se riuscissimo, io ne sarei felice solo per dire quanto può essere pirla, stupido, un gesto del genere, prima che oltre pericoloso. La ringrazio, grazie assessore Carmela Rozza per essere stata con noi. Dunque, all'ombra delle palme si apre a Milano anche la settimana della moda. Quella iniziata oggi è la più importante delle 4 settimane della moda che Milano ospita ogni anno. Primo, perché in passerelle negli showroom ci sono gli abiti e gli accessori per la prossima stagione fredda e le collezioni delle stagioni autunno-inverno, in questo caso 2017-18, hanno prezzi più alti rispetto a quelle estive e contribuiscono di più a ricavi e utili delle aziende. Secondo, perché le donne comprano più degli uomini, come dimostrano i dati 2016. Il fatturato della moda femminile è cresciuto del 2,3% a 13 miliardi, quello della moda maschile dello 0,9% a poco meno di 9 miliardi. Tornando alla Fashion Week, la sfilata più attesa della prima giornata è quella di Gucci, che per la prima volta manderà in passerella le collezioni donna e uomo insieme, seguendo l'esempio di Burberry, che per primo tra i grandi marchi ha sperimentato la formula co-ed. Sabato Bottega Veneta farà lo stesso e in settembre altri big brand potrebbero scegliere la strada uguale. Finito lo sciopero dei taxi, Milano tira un sospiro di sollievo. Negli ultimi 2 anni la città ha dimostrato di essere molto più attrattiva di Londra e New York e la sfida nel campo della moda si gioca di fatto solo con Parigi. Altra novità sono le prove generali per l'unificazione di sfilate e fiere. Domani si chiude Linea Pelle, sabato si apre la fiera degli occhiali e in settembre la vetrina sarà completa con Micam, calzature e Mipel. Che l'Italia, o almeno Milano e la moda, stiano imparando a fare sistema? Giulia Crivelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nota di merito all'affezionato ascoltatore Davide, che ci scrive spesso via WhatsApp e l'altro giorno aveva detto: scommettiamo che i tassisti torneranno a lavorare in tempo per la settimana della moda. Non so se la motivazione sia questo, però è avvenuto e lui ce lo ricorda. Nota di merito, ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi ci ritroviamo subito dopo e riprendiamo il nostro giro per l'Italia, parliamo anche di altri argomenti. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: manovra entro aprile o procedura di infrazione, dice l'Unione Europea all'Italia. Dombrovskis, dalla situazione italiana rischi anche per altri paesi. L'inflazione di gennaio cresce ai massimi da 3 anni e mezzo per il cosiddetto carrello della spesa, la crescita è dell'1,9%. Dopo la protesta dei tassisti riprende il servizio in tutta Italia e i tassisti hanno approvato, le sigle sindacali a maggioranza hanno approvato l'accordo col governo. Oggi mezzi pubblici fermi per 4 ore questa mattina a Roma. Torna la Viaria in Francia, ne parleremo tra un attimo, centinaia di migliaia di anatre abbattute. Nel Veronese è ordinato invece l'abbattimento di 43.000 tacchini. È stato condannato per truffa a 8 anni e 3 mesi di carcere l'ex presidente di Banca Carige, Berneschi. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo dunque, ci chiede un altro ascoltatore o ascoltatrice affezionata, la vicenda della Liguria che forse abbiamo lasciato un po' da parte, forse lo ricorderete, ce ne siamo occupati, era la vicenda di due comuni che erano stati colpiti dall'alluvione, avevano raccontato che la regione si era dimenticata di chiedere i soldi allo Stato e quindi erano rimasti senza soldi, avevamo sentito il presidente della regione che ci aveva detto no, noi non ci siamo figuratevi se ci siamo scordati di chiedere i soldi allo Stato, i soldi non c'erano, abbiamo provato a chiedere al Ministero, il Ministero ancora non ci ha dato una risposta, che dobbiamo fare? Sì, se la domanda c'è stato uno scaricabarile e questo scaricabarile non si è ancora concluso, no, effettivamente non si è concluso. Se volete scriverci potete farlo anche sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, che da oggi abbiamo un po' riattivato. Riprendiamo il nostro giro per l'Italia, ne andremo tra un attimo in Veneto, ma prima abbiamo un servizio che ci dà un quadro, senza fare allarmismo, come sempre però, di un po' di ritorno dell'influenza aviaria, un altro ceppo rispetto a quello rimasto famoso, e però qualche problema c'è, sentiamo. Anche il Veneto è parte della Lombardia nella morsa dell'aviaria. 4 i focolai confermati negli allevamenti delle province di Venezia, Padova, Rovigo e Verona, a cui si aggiungono 2 casi nel Mantovano, fa sapere il SIVEMP, il sindacato italiano veterinari di medicina pubblica del Veneto, che lancia l'allarme chiedendo alla regione investimenti adeguati per fronteggiare l'emergenza. Lo spettro dell'influenza aviaria fa paura in particolare agli allevatori della provincia di Verona. Dopo i 42.000 tacchini soppressi nei giorni scorsi in un allevamento di Roncanova, ora dovranno essere abbattuti altri 8.000 capi in un'azienda agricola situata a Maccacari, a circa 2,5 km dal focolaio dell'infezione, un intervento questo di natura preventiva. I casi italiani seguono quelli molto gravi francesi. Nel sud-ovest della Francia, 360.000 anatre saranno abbattute negli allevamenti delle Lande, il dipartimento primo produttore di foie gras a livello nazionale, lo ha annunciato il ministro dell'agricoltura Stéphane Le Foll. Nell'intera area sarà inoltre applicato il cosiddetto vuoto biologico, con interventi di risanamento in tutti gli allevamenti per impedire l'emergenza di nuovi focolai del virus, che nella regione ha già costretto all'abbattimento di 1.300.000 capi dall'inizio dell'epidemia a novembre scorso. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Aldo Grasselli, segretario nazionale del SIVEMP, sindacato italiano veterinari di medicina pubblica, presidente della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. C'è qualche fronte di preoccupazione particolare che dobbiamo avere per questa nuova ondata di aviaria? Beh, la preoccupazione di tutte le ondate di infezioni che arrivano normalmente sul nostro territorio, perché siamo una zona di passaggio delle migrazioni degli uccelli che spesso sono infetti da virus che poi in qualche modo raggiungono i nostri allevamenti, per cui i rischi possono essere controllati, i pericoli esistono e non possiamo controbattere la natura che funziona nel suo modo, per cui gli animali selvatici migreranno sempre. Noi dobbiamo avere dei servizi veterinari capaci di arginare le patologie che compariranno comunque sul nostro territorio, in modo da rendere il più ridotto possibile l'impatto di queste malattie sull'economia agrozootecnica e sul settore alimentare. Sì, il segnale appunto è che questo nuovo ceppo di aviaria sia già arrivato, perché come raccontava nel servizio la nostra Roberta Pellegatta, è stato ordinato l'abbattimento di 43.000 tacchini appunto nel Veronese. C'è da aspettarsi che, per così dire, questo sia il picco o appunto il meccanismo delle migrazioni del quale ci parlava prima può far presumere che il periodo sia più avanti? L'andamento epidemiologico di queste patologie si può conoscere soltanto al termine, non possiamo fare delle previsioni. Dobbiamo essere attrezzati con la maggiore forza possibile dei servizi veterinari in modo da prevenire la presenza di altri focolai. Lei consideri che in questo momento i veterinari del Veneto e della Lombardia continuamente, quotidianamente controllano gli allevamenti facendo tamponi, facendo prelievi e portando al laboratorio degli istituti zooprofilattici quantitativi notevoli di esami da svolgere nel più tempo breve possibile, per conoscere la situazione epidemiologica degli allevamenti, per consentire anche la commercializzazione. Senza questi controlli veterinari si blocca un'intera filiera economica. Ovvio, naturalmente. E il sistema dei controlli è abbastanza avanzato, mi sembra di capire da quel che dice Grasselli, proprio per identificare in tempo le situazioni di potenziale rischio, no? Lo vediamo nei numeri. Gli abbattimenti che facciamo in Italia, per necessariamente o indispensabili a certe volte per arginare le patologie, sono quantitativamente molto, molto minori di quelli che fanno altri paesi europei, con costi molto minori per lo Stato, per gli allevatori, per il sistema economico, perché i nostri servizi veterinari, pur essendo in carenza di organico, anche perché c'è un problema di invecchiamento della popolazione sanitaria nazionale e stanno andando in pensione parecchi, abbiamo bisogno di assumere dei giovani, ancorché siamo diminuiti, riusciamo a mantenere un livello forte di prevenzione, ovviamente però sottraendo attenzione ad altri settori, perché quando ci sono le emergenze si deve concentrare tutte le energie, tutte le forze sulle problematiche che avete visto in Francia e che abbiamo adesso a Verona e anche in alcune realtà della Lombardia. Ci vuole una pianificazione migliore dei controlli, secondo lei, o quella che abbiamo, da quel che ci dice lei, sembra, come dire, efficace? Negli anni abbiamo risposto sempre molto bene, in modo molto efficace, alle patologie dell'influenza aviaria, ma anche ad altre patologie in tutto il territorio nazionale. Il rischio è che domani siamo meno efficienti soltanto perché manca la forza per poter fare le cose necessarie. Quando si parla di emergenze bisogna avere la possibilità di reggere le emergenze, altrimenti si rischia di non essere adeguatamente attrezzati, avere poco personale, i servizi magari disarticolati perché si stanno ricomponendo le aziende sanitarie con modalità che tengono poco in considerazione il settore prevenzione, sia umano ma soprattutto veterinaria, che ha delle sue peculiarità. Quindi una pianificazione attenta a queste situazioni per far risparmiare in questo momento al Veneto e alla Lombardia, ma è una malattia che se si diffonde in tutto il paese colpisce anche le altre regioni, per cui, come diciamo sempre in questi casi, la forza di protezione del sistema è data purtroppo dall'anello più debole della catena e quindi bisogna evitare di indebolire gli anelli di tutte le catene delle regioni in tutti i settori veterinari. Grazie Aldo Grasselli, segretario nazionale del SIVEMP, il Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica, anche presidente della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva. E adesso ci spostiamo a Roma. Innanzitutto con un paio di notizie. Quella che arriva da fonti del Campidoglio, secondo le quali non è stata presa alcuna decisione da parte dell'amministrazione sullo stadio della Roma, come vi abbiamo raccontato nel pomeriggio. Ci sarebbe dovuto essere un incontro ed è previsto nel pomeriggio un incontro del leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo con i consiglieri del Movimento e la sindaca Virginia Raggi proprio in Campidoglio. Nel frattempo, dopo quello che è successo proprio ieri a Roma, il ministro Del Rio dice: la riforma che faremo sui taxi è una riforma seria senza cedere alla piazza. Ma restiamo a Roma perché, come sapete, nelle settimane scorse sono stati affissi dei manifesti contro Papa Francesco. Oggi si è appreso che sarà la segreteria di Stato Vaticana a vigilare sull'uso improprio dell'immagine del Papa. Tra i compiti della segreteria di Stato c'è anche quello di tutelare l'immagine del Papa affinché il messaggio possa giungere ai fedeli integro e la sua persona non venga strumentalizzata, e quanto ricorda con una nota la stessa segreteria, che d'ora in poi annuncia avvierà sistematiche attività di sorveglianza per monitorare le modalità con cui l'immagine del Papa e gli stemmi della Santa Sede vengono utilizzati. Se sarà necessario, si chiarisce inoltre, la stessa segreteria interverrà con opportuni provvedimenti. La nota non dice di più, ma l'iniziativa con ogni probabilità nasce dai recenti fatti di cronaca. Gli ultimi in ordine di tempo, i manifesti antipapa affissi a Roma e la falsa copia dell'Osservatore Romano di alcuni giorni fa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.